Vedi la televisione? È tutta lì la questione, tutta lì la questione. Guarda, ascolta, ginocchia, ti prega. La pubblicità, guarda, ginocchia. Non produciamo più niente, non serviamo più niente. Tutto automatizzato, che cazzo ci stiamo a fare? Allora siamo dei consumatori, sì. Ok, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino. Però se non lo compri, che succede? Se non lo compri, che cosa sei? Mi chiedo? Che cosa? Un malato, mentale. Click, basta un click e vedo il mondo. In diretta o in differita quello che sta succedendo. Un semplice segnale, dito sul telecomando. In tempo reale il canale mi dà un rimando. Si presentifica in me la mia visione. È critica questa situazione. L'audio che mi avvolge non so più manco da dove. I miei occhi affascinati dall'immagine a colore. È tutto ancora intorno ma ne perdo cognizione. Focalizzo sullo schermo tutta la concentrazione. La parola è di contorno a quel luccichio sublime. Confusione, confusione, confusione. Con mio animo infantile sembrigliato in quello che io vedo dire. Deconcentro, mi distendo, ci riprovo. È così che là dentro mi ci perdo e poi non mi ritrovo. Sono un uomo nuovo dentro questo mondo nuovo. Un uomo nuovo. Nel mondo dell'informazione siamo informatizzati ma disinformati, bombardati di dati. Ci sentiamo trascinati, trasportati, trasformati da sofismi vacui. Nel mondo dell'informazione siamo informatizzati ma disinformati, bombardati di dati. Ci sentiamo trascinati, trasportati, trasformati da sofismi vacui. È pazzesco, non capisco se questo mondo nuovo è lo stesso in cui da 20 anni cresco. Forse è meglio che ora esco. Ma è pazzesco, non ci riesco. Sono preso in questa rete. Vedo quello che vedete, sento quello che sentite. Va a finire che poi penso pure quello che pensate. Non sono più convinto ad essere io sopra questa mia poltrona. Tanto meno di sapere quale sia la mia persona. Mentre sento che se ne va la mia personalità, che si spersonalizza nel marasma delle false identità. Tutte identiche a chi viene a che va in questa brutta parodia della nostra società. È pazzesco, resto cosciente che quello che vedo è grottesco. Ma sono già così plagiato che il tipo che ha appena parlato mi sembra onesto. È pazzesco, è pazzesco, è pazzesco, pazzesco, pazzesco, pazzesco. Nel mondo dell'informazione siamo informatizzati ma disinformati, bombardati di dati. Ci sentiamo trascinati, trasportati, trasformati da sofismi vacui. Nel mondo dell'informazione siamo informatizzati ma disinformati, bombardati di dati. Ci sentiamo trascinati, trasportati, trasformati da sofismi vacui. Bombardamento mediatico, dati su dati, fatti spiegati più che minimi dettagli, con i minimi dettagli per sembrare analizzati. Mezz'ora di telegiornale, 4 eventi catastrofici. Sembran tutti spaventati, pericolosi terroristi che ci vogliono annientati. Capi di governo che si sentono maltrattati, sono in lutto per la morte dei soldati. La nazione piange, questi paladini coraggiosi. La giornalista in pena, piange per degli uomini grandiosi. Ma poi fa un bel sorriso, è il momento dello sport, calciatori muscolosi. Non può mancare un bel servizio con le prove dei famosi. Rinchiusi tutti soli in questi posti tenebrosi. Infine i saluti si da spazio portentosi, consigli culinari del TG2 dossier pergolosi. Cortocircuito neuronale, autoelettroshock che mi risveglia ogni istinto primordiale. Sfogo psicosomatico che prende l'apparato intestinale. Ora lo sento troppo, la TV fa sboccare, ora ci sbocco. Nel mondo dell'informazione siamo informatizzati ma disinformati, bombardati di dati. Ci sentiamo trascinati, trasportati, trasformati da sofismi vacui. Nel mondo dell'informazione siamo informatizzati ma disinformati, bombardati di dati. Ci sentiamo trascinati, trasportati, trasformati da sofismi vacui.